Io vi giuro, giuro solennemente che in tanti anni che recensisco gialli e altri romanzi qui a Radio Popolare e altrove, non ho mai raccomandato né sconsigliato agli ascoltatori un libro che non avessi prima letto da cima a fondo. La precisazione potrebbe sembrarvi superflua, ma si tratta in realtà di una pratica più diffusa di quanto non si supponga, facilitata da usanza, cara agli uffici stampa, di accompagnare le copie inviate per recensione con un accurato riassunto dell'opera e un ampio repertorio delle critiche già apparse in genere all'estero. Ma vi garantisco di non essermici mai piegato. Come ho già avuto occasione di dichiarare, scrivere di libri è una pratica già abbastanza noiosa in sé, perché uno si debba negare l'unico piacere che i libri possono dare, che è appunto quello di leggerli. Mi è tuttavia capitato in mano giorni fa un romanzo che sono fortemente tentato di sconsigliare a chiunque, anche se non l'ho letto e non ho al momento nessuna intenzione di leggerlo. Capirete, un'opera di narrativa conta per sé, come dire, per il proprio testo, ma i testi, nella pratica editoriale corrente, sono scortati da un paratesto, come si dice adesso, le indicazioni in prima e in quarta di copertina, nei risvolti e via dicendo, da cui non è facile prescindere. Il paratesto dell'opera in questione, ve lo assicuro, è tale che sembra fatto apposta per scoraggiare qualsiasi lettore di buona volontà. Cominciamo, non vi sembri strano, con il cognome dell'autrice. Oh, ecco, il cognome degli autori in sé non fa parte del paratesto e, non essendo nessuno responsabile del nome che porta, non dovrebbe avere un grandissimo peso critico, salvo che per possibili riferimenti a opere precedenti, il che, trattandosi di un'opera prima, in questo non è il caso. Ma se l'autrice poveretta si chiama o si firma Karin Slaughter, GH, poi vediamo cosa significa, c'era proprio bisogno, secondo voi, di piazzare in quarta di copertina sotto la sua foto una voce del Ragazzini, una voce del dizionario inglese-italiano del Ragazzini, che spiega come il sostantivo slaughter in inglese significhi uno, macellazione, mattazione, raro, e due, figurato, macello, carneficina, massacro, strage? E vi pare sensato, a questo punto, cambiare in corpi il titolo di un romanzo che nell'originale suonava Faint Cold Fear, una fredda paura sottile, di illustrare la copertina con l'immagine della lama insanguinata di un coltellaccio e di aggiungervi a mo' di strillo la raccomandazione non leggetelo di notte, non leggetelo da soli? Che poi, se qualcuno andasse a chiedere lumi ai risvolti, apprenderebbe che dalle pagine dell'autrice trasudano una violenza e una perversione che c'è solo da sperare non siano uno specchio fedele della provincia americana, e che d'altronde, con il nome che si ritrova, la nostra Karin, a parte aprire un mattatoio, non avrebbe potuto trovarsi un lavoro più azzeccato, letterale. Quanto alla trama, beh, le informazioni sono succinte e mesorienti. Ha a che fare con uno studente che muore e sembra suicida, con la coroner, un magistrato locale, che si presenta a ispezionare la salma in compagnia di una sorella incinta di 8 mesi, perché la prospezione di cadaveri, come noto, è raccomandatissima alle gestanti, però la poveraccia viene subito accoltellata, per cui non conta, e poi col fatto che di colpo la placida e rispettabile contea di Grant in Georgia precipita in un incubo terrificante a base di violenze domestiche, traffici di droga, festini a luce rosse, mentre il numero dei morti continua a salire, una protagonista che dovrà infine risolversi ad affrontare da sola le proprie paure in un finale agghiacciante e brutale. Avete notato che nessuna di queste informazioni, pur fornite dall'editore con lo scopo presunto di incoraggiare l'acquisto e la lettura del libro, nessuna ha minimamente a che fare con il suo valore letterario, sul quale, avendo io deciso di non leggerlo, non posso ovviamente ragguagliarvi. Non so neanche se la giovane Slaughter sia davvero così trucida come assicura il suo cognome e il suo editore italiano. Il mio amico Natale Galli, che il libro ha letto, dice che poi neanche tanto. Però io so benissimo che di un libro che mi si raccomanda solo in nome di un contenuto violento non so assolutamente cosa fare. Il rischio di imbattersi in una presentazione editoriale troppo lusinghiera, in un paratesto, se mi permettete, un facile bisticcio un po' paraculo, è naturalmente di quelli che corre qualsiasi lettore, ma da quello abbiamo imparato tutti a difenderci. Proposte di questo genere, invece, non sono sindacabili in alcun modo. Sono semplicemente irricevibili. Vedete? Io non sono un ammiratore di quella che un tempo, facendo torto alle lettrici non sposate, si definiva letteratura per signorine. So che viviamo in un mondo abbastanza violento e che, volendo rappresentarlo e dare ragione dei suoi problemi, dalla violenza non si può prescindere. La stessa casa editrice PM, quella che pubblica il romanzo in questione, ha in catalogo autori come Michael Connelly, Robert Crace, che in materia non si tirano indietro, vi assicuro, e che io ho sempre apprezzato e raccomandato. Ma un conto è trattare la violenza come un problema su cui riflettere, un altro esibirla come un genere di consumo. Se di un libro coloro che più di tutti dovrebbero avere interesse a magnificarne i pregi non si sprecano neanche a dirmi che è scritto bene, ma si limitano ad assicurarmi che vi sono descritti molti fatti efferati, tanto che l'autrice potrebbe benissimo aprire un mattatoio, mi spiace, ma io non lo leggo. È strano comunque lo statuto di quel, come possiamo chiamarlo, concetto, un valore, ma insomma, è strano lo statuto della violenza nella cultura di oggi. È una prassi così largamente diffusa a livello pubblico e privato, un valore di cui la società intera è imbevuta, di cui si vantano i governi che ne rivendicano l'inevitabilità in nome del fine che ci si propone, e d'altro canto è anche un disvalore. Il disvalore per eccellenza, quello che mette automaticamente dalla parte del torto chi lo assume a livello individuale. Con tutti si tratta, per tutti c'è posto, ma con i violenti e per i violenti no, proclamano quegli stessi statisti che poi mandano le truppe a combattere, che organizzano e pianificano le esecuzioni mirate dei loro nemici, non importa se a colpi di missile o mediante iniezione letale. E quando, come succede in questi giorni, ritorniamo sulle torture ovviamente, quando, come succede in questi giorni, la contraddizione sembra davvero difficile da mandar giù, quando la gente capisce che c'è qualcosa che non va, quello che prima era pubblico ritorna privato e si finisce sempre per scoprire che esercitare violenza anche sul terreno di guerra, anche in regime d'occupazione militare, sono, guarda un po', soltanto dei devianti singoli, delle mele marce qualsiasi degli individui corrotti che verranno, non se ne discute nemmeno, individuati con prontezza e puniti con severità. E questo, badate, non è soltanto un problema di ipocrisia, è una contraddizione di fondo del quadro valori, probabilmente troppo grossa per sperare di trattarla o di esaurirla in questa sede, ma è quella comunque in cui si annidano le varie Karin Slaughter di questo mondo e tutti quelli che ne sfruttano l'opera. Ecco, una volta tanto, forse, può valere la pena di non stare al gioco.